Le 13 e un minuto. GR24, il sole 24 ore. Fini sul processo breve, giudizio solo alla fine. Berlusconi, nonostante la crisi, manteniamo gli impegni. Un arresto per l'auto con esplosivo e armi trovata a Reggio Calabria. La rabbia di Pechino sulla Clinton, il suo appello danneggia i rapporti bilaterali. A Milano febbre da derby, tutto esaurito per la sfida di domenica. Buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione. Dunque sempre la giustizia in primo piano con il dibattito infinito sul processo breve. Ne ha parlato oggi anche il presidente della Camera Fini durante una lectio magistralis all'Università di Tor Vergata, con la quale ci colleghiamo subito. In diretta per noi Nicola Accardo. Buona giornata Nicola. Sì, buongiorno da Tor Vergata. Aspetterà il secondo round alla Camera Gianfranco Fini prima di esprimere un giudizio sul nuovo processo breve. C'è ancora tempo per modificare la legge, ha detto il Presidente della Camera, ed è troppo presto per parlarne ora. Ma ha sottolineato due aspetti positivi. Da una parte l'applicabilità della norma a tutti gli imputati e non solo agli incensurati. Dall'altra le nuove risorse stanziate dalla finanziaria per il sistema giudiziario. E la terza carica dello Stato ha parlato anche a nome del Presidente della Repubblica. Non conosce la Costituzione, ha detto Fini, chi pensa e pretende che Napolitano parli mentre una legge è ancora in Parlamento. Nella sua lectio magistralis davanti agli studenti di giurisprudenza, Fini ha insistito sul concetto di democrazia partecipativa e sul ruolo centrale del Parlamento, mentre ha avvertito l'urgenza di legiferare sul lobbying in Italia. Secondo il Presidente della Camera ci vuole più trasparenza nei rapporti tra pubblica amministrazione e gruppi di pressione politica. Da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Nicola, ed il dibattito nella maggioranza va avanti mentre l'opposizione chiude al dialogo. In diretta Andrea Viali, Andrea. Sì, Anna Rita, delle leggi sulla giustizia stamattina è tornato a parlare anche il guardasigilli Alfano. Il Ministro della Giustizia ha detto processo breve e legittimo impedimento sono due provvedimenti che rispondono a ragioni differenti e che andranno avanti insieme. Ecco, però, nonostante le sue parole, in realtà in questo momento la maggioranza sembra aver deciso di frenare sul processo breve e puntare invece di più sul legittimo impedimento come soluzione in grado di permettere al Premier Berlusconi di partecipare alla campagna elettorale per le regionali senza problemi legati alle udienze dei processi che lo riguardano. Quella del legittimo impedimento, tra l'altro, è una via che dall'opposizione è suggerita anche dall'UDC. Sentiamo cosa ha detto stamattina il leader centrista Casini. Si è fatto tanto rumore e si è tornato su tutti i piani a capire che la posizione dell'UDC è la più ragionevole. Basta pensare al legittimo impedimento sui problemi della giustizia, che è l'unica soluzione anche per Berlusconi. Ecco, sempre dall'opposizione invece stamattina il Partito Democratico con Orlando ha ribadito di essere disponibile al confronto su una riforma complessiva della giustizia, ma non su leggi che puntano a ripristinare forme di immunità destinate a favorire Berlusconi. A te Anna Rita. Grazie Andrea. E viaggia online via SMS la protesta del popolo viola e dei grillini contro il processo breve. Proteste e voglia di piazza corrono in rete, su Facebook, sui dibattiti online, ma anche via SMS tramite i cellulari. Dopo il sì del Senato al processo breve, i naviganti ergono barricate virtuali contro la maggioranza, ma anche contro l'opposizione colpevole, si legge, di stare a guardare. Ieri c'è stato intanto un sit-in fra Piazza Navona e Palazzo Madama in concomitanza con il voto del Senato. Il prossimo appuntamento è per il 30 di gennaio. Andrea Sacco dei Grillini di Torino. Il 30 c'è un presidio che si ricollega, che è un presidio che verrà fatto in difesa della Costituzione tutta. C'è un'adesione per il popolo delle agende rosse, il popolo viola che diceva lei, se si chiama popolo viola, movimento viola, che in realtà mi sembrano mille rivoli di uno stesso fiume, di un movimento che vuole contrastare determinate decisioni. Valentina Furlanetto, GR24, il Sole 24 Ore. E allora abbiamo sentito la posizione di Fini che dice di aspettare per un giudizio, abbiamo sentito che le opposizioni protestano e anche sulla rete c'è il popolo che protesta, il popolo viola e anche quello dei grillini. Ma il provvedimento adesso com'è? Cioè cosa è cambiato in Senato? Lo chiediamo a Donatella Stasio del Sole 24 Ore. Buona giornata Donatella. buona giornata a voi. Donatella, allora il provvedimento è cambiato in Senato e sono state stanziate anche delle risorse per gli organici, risorse che Fini ha detto oggi di ritenere sufficienti. In che senso è cambiato? Come è cambiato? Sì, il provvedimento è cambiato decisamente rispetto alla versione originaria in mille punti. Fini oggi ha fatto riferimento, per esempio, al fatto che mentre originariamente il processo breve si applicava soltanto agli incensurati, escludendo appunto per esempio i recidivi e quant'altri, per esempio questa esclusione è sparita dal testo definitivo, dal testo uscito dal Senato, che si applica appunto a tutti quanti i processi per tutti quanti i reati, sia pure diciamo con una durata variabile a seconda della gravità dei reati. Però senza entrare nel dettaglio appunto di norme che comunque rimangono diciamo delle norme problematiche, come ha fatto filtrare il Quirinale nei giorni scorsi, il punto vero, il punto diciamo più problematico è quello relativo alla norma transitoria, perché la norma transitoria è una norma che si applica soltanto ad alcune categorie di reati e quindi ad alcuni processi, e si applica con una diciamo ulteriore deroga rispetto a questa, che è già una deroga, perché in questi casi non vale neanche più il termine di 3 anni previsto, come si dice in gergo, a regime, cioè per il futuro, ma viene questo termine ulteriormente ridotto a 2 anni, il che crea una disomogeneità tra appunto la norma transitoria e la norma regime, che vuol dire tra i processi in corso e i processi futuri, e questa diciamo questo lo rende da un lato, come sostiene l'opposizione, una norma persona, ma perché ha delle ricadute immediate e dirette sui processi del Premier che verrebbero cancellati, e provoca anche un effetto diciamo amnistia, che è anch'esso oggettivamente un effetto problematico. Certo, che è poi quello che sottolineano anche gli operatori del settore, gli avvocati, i magistrati. Donatella, io volevo farti un'altra domanda. Invece il legittimo impedimento, oggi il ministro Alfano ha detto questi due provvedimenti andranno avanti insieme, secondo te da un punto di vista tecnico potrebbe, come dice Casini, trovare più persone d'accordo o no? Ma il legittimo impedimento presenta anch'esso diciamo dei profili di incostituzionalità, però come dire, è più digeribile da un certo punto di vista se viene diciamo concepito in maniera tale per cui appunto viene effettivamente proposto come legge ponte rispetto ad una riforma successiva che poi dovrebbe essere la riforma costituzionale dell'immunità, sia essa lodo bis o immunità parlamentare. Tali e tanti sono comunque le, diciamo, i vizi, i dubbi, le perplessità del processo breve, che non c'è dubbio che le forze politiche, in forza di quella che viene chiamata diciamo la riduzione del danno, sono disposte a convergere di più sul legittimo impedimento che non su una riforma che obiettivamente è una riforma che provoca come dire un terremoto nel sistema giudiziario, tanto è vero che poi non viene approvata prima delle elezioni regionali, perché infatti se una riforma così importante e così determinante per il sistema, beh, insomma, potrebbe essere anche spesa durante la campagna elettorale. Invece. Grazie a Donatella Stasio per questi chiarimenti tecnici sui due provvedimenti, soprattutto sul provvedimento relativo al processo breve. Tutta questa polemica sulla giustizia arriva in un momento di particolare preoccupazione per una regione italiana, ovvero la Calabria. Ieri la visita di Napolitano ed il ritrovamento di quest'auto piena di armi. Oggi c'è stato un arresto in diretta, Filippo Veltri. Filippo, allora, ci sono state delle novità importanti. Chi è stato arrestato? Che ruolo aveva? Buongiorno innanzitutto. L'arrestato si chiama Francesco Nocera, 45 anni, ed è un carrozziere di Reggio Calabria, che gli inquirenti dicono affiliato alla cosca dei Ficarra Latella, una delle più importanti dell'andrangheta di Reggio Calabria. Di che cosa lo accusano? Sostanzialmente di favoreggiamento personale. Secondo infatti le indagini, questo Nocera avrebbe omesso di riferire alcune circostanze sulla famosa auto di cui hai parlato tu, che invece avrebbero potuto consentire ai carabinieri di identificare le persone che avevano collocato l'auto con l'esplosivo. Di che cosa si tratta? C'erano armi, c'erano fucili, c'erano pistole, due ordigni in un'auto che era a circa 500 metri dal percorso che è stato seguito al Presidente della Repubblica Napolitano ieri durante la sua visita a Reggio Calabria. Dentro l'auto c'erano anche poi delle bombe dotate di micce, 2 litri di gasolio e altro materiale. Questo Nocera era il proprietario dell'autovettura che era stata rubata la mattina stessa ed ha presentato una denuncia alla stazione dei carabinieri di Reggio Calabria dicendo di aver subito il furto di questo veicolo dopo averlo parcheggiato. Gli inquirenti non sono convinti di questa versione e credono che l'arresto di Nocera possa portare agli autori di questo gesto, che sempre più si qualifica in verità come un gesto di intimidazione più in generale alle istituzioni, non fosse altro che per il giorno in cui è stato fatto trovare questo mezzo. Grazie a Filippo Veltri per gli aggiornamenti dalla Calabria. Noi torniamo alla politica. Oggi Consiglio dei Ministri, riunione del CIPE. Berlusconi ha parlato di crisi economica. Alessandra Schepisi, Alessandra. Sì, buongiorno. Nonostante la crisi l'Italia c'è e va avanti, sono parole di ottimismo quelle usate dal Premier questa mattina commentando una intesa sulle infrastrutture con la Regione Toscana. La crisi c'è ma noi manteniamo gli impegni, ha detto il Premier, che ha sottolineato come il governo sia riuscito a non aumentare le tasse e a non mettere le mani nelle tasche degli italiani. Inoltre ha aggiunto Berlusconi, abbiamo garantito con la cassa integrazione la vicinanza dello Stato agli italiani che hanno perso il lavoro. Il Premier ha parlato dopo un breve Consiglio dei Ministri che ha approvato una serie di provvedimenti, ma soprattutto ha deciso di accelerare le procedure per le adozioni internazionali dei bambini di Haiti. In sostanza è stato dato un mandato al sottosegretario di Stato delegato alle politiche per la famiglia Giovanardi, al ministro per le pari opportunità Carfagna, per verificare la possibilità di corsie preferenziali in tal senso, una volta accertato ovviamente dalle istituzioni haitiane lo stato di adottabilità dei minori. Infine il CIPE ha approvato 3 interventi infrastrutturali per 4,5 miliardi di euro che riguardano la realizzazione di tratti autostradali da nord a sud del paese. E da Roma è tutta, voi la linea. Grazie Alessandra. Alle elezioni regionali era dedicato il nostro sondaggio Riflettori sul Lazio su Emma Bonino. L'attacco è frontale per Giuliano Ferrara e il diavolo. Per Avvenire la sua candidatura è uno schiaffo alla comunità cristiana. Libero ha ripescato e pubblicato una foto che la ritrae nel 1975 mentre pratica su una donna un aborto clandestino. Nel mirino è Emma Bonino, la cui candidatura nel Lazio, nel centro-sinistra, rischia di creare qualche grattacapo per la sua storia da radicale nell'elettorato cattolico. Tanto che Paola Binetti, onorevole del PD, per l'ennesima volta conferma: se vince lascio il partito. E poi dice: ogni giorno, ogni passaggio mostrano che nel Partito Democratico c'è una sorta di consegna sia in Lombardia sia in Lazio e non so ancora a una guida radicale. Ma nel nostro sondaggio di oggi gli ascoltatori approvano la candidatura della Bonino. Il 65% di voi si dice d'accordo. Bianconero torna lunedì mattina alle 8.30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13:19 minuti, ancora una buona giornata dalla redazione da Anna-Rita D'Ambrosio. Nella prima parte del nostro GR abbiamo parlato lungamente di giustizia, del processo breve. Il presidente della Camera Fini a Tor Vergata, all'università, tenendo una lectio magistralis, ha detto che un giudizio sarà espresso solo alla fine. Berlusconi invece, al termine del Consiglio dei Ministri, ha parlato di crisi economica, nonostante la situazione, ha detto: manteniamo gli impegni. Siamo andati poi a Calabria per un arresto che c'è stato questa mattina in relazione all'auto con esplosivo e armi trovata ieri nei pressi dell'aeroporto. Adesso, come detto, ci spostiamo in Cina, che ha condannato il discorso di Hillary Clinton sulla censura in internet. La Cina non l'ha presa bene. Ieri le parole critiche del segretario di Stato americano Hillary Clinton. The United States and China have different views on this issue. Gli Stati Uniti e la Cina hanno visioni diverse della rete, aveva dichiarato ieri la Clinton, che aveva messo la Cina nel gruppo dei paesi che recentemente hanno ristretto la libertà di internet, insieme a Tunisia, Uzbekistan, Arabia Saudita e Vietnam. Nello stesso discorso, la Clinton aveva chiesto a Pechino di avviare un'inchiesta minuziosa e trasparente sui recenti casi di pirateria informatica registrati nel paese, in particolare contro Google, che ha minacciato di andarsene anche a causa della censura. La dura risposta della Cina è affidata a una nota pubblicata sul sito web del Ministero degli Esteri. Le accuse degli Stati Uniti negano la realtà. Internet, si legge, in Cina è aperta, ma il paese ha la sua situazione nazionale e le sue tradizioni culturali. Pechino assicura è disposta a proseguire nel dialogo, affrontando i disaccordi e le difficoltà in modo appropriato. E la questione di quale sia il modo appropriato è proprio quella da chiarire. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. E intanto, dopo la riforma sanitaria, il presidente Barack Obama ha aperto ieri un nuovo fronte riformatore, quello della finanza. Vi ricordo per tutti i dettagli l'appuntamento con Mario Platero con America 24 alle 13:45. Adesso parliamo delle ultime novità che arrivano da Haiti, dove sono state sospese le ricerche di eventuali sopravvissuti sotto le macerie. L'ONU adesso si concentra sui soccorsi ai circa 3 milioni di sfollati. Allarme lanciato dall'UNICEF proprio poco fa. Abbiamo informazioni su 15 bambini scomparsi dagli ospedali dopo il sisma, ha affermato a Ginevra un responsabile dell'UNICEF. Adesso torniamo in Italia, ci colleghiamo con il Palazzo di Giustizia di Milano per l'udienza oggi sulle liti intorno all'eredità Agnelli. Una buona giornata a Raffaella Calandra. Raffaella, cosa è successo? Sì, buongiorno. Prima 10 milioni, poi altri 3. L'Agenzia delle Entrate ha presentato un conto da 13 milioni all'avvocato Gamna per la famosa contestata parcella di Margherita Agnelli, che non sarebbe stata dichiarata parcella pagata quando il legale, allora nello studio Chiomenti, assisteva la figlia dell'avvocato all'inizio della battaglia legale sull'eredità di Gianni Agnelli. Ora, con l'accordo del PM Eugenio Fusco, questa mattina nell'udienza davanti al GUP Andrea Ghinetti, la parte ha chiesto e ottenuto un rinvio al 30 marzo per concludere la trattativa con il fisco, e l'accordo fiscale è considerato fondamentale per chiudere il rito abbreviato tentato dall'avvocato. Anna Rita. Raffaella, c'è poi una nuova indagine relativa ai fotoricatti, un'indagine condotta dal PM Di Maio. Ci sono delle novità anche su questo fronte? Un'indagine che riparte con due domande: c'era un'unica regia dietro queste foto ritirate e chi erano poi i beneficiari? Riparte da qui la nuova inchiesta Ballettopoli, che fa un salto di qualità. Ancora una volta sono foto e ricatti, ma le cifre sono più alte e i personaggi coinvolti come vittime ancora più influenti di quelli emersi nelle prime indagini. L'inchiesta è su una ventina di episodi di foto scattate a Milano, tranne una a Roma, foto tolte dal mercato tra il 2008 e il 2009 a suon di centinaia di migliaia di euro e poi usate per orientare scelte e decisioni. L'indagine è partita da una intercettazione tra uno spacciatore e un fotografo in un'inchiesta sulla droga nella Milano Bene, va più in profondità e si vuole capire perché sono coinvolte sempre le stesse persone, si vuole andare a vedere anche all'interno degli assetti societari della società Spy One, considerata vicina a Signorini, di cui però nessuno al momento è stato sentito né indagato. Ieri invece, per un chiarimento su un episodio, è stato nuovamente ascoltato Fabrizio Corona. La settimana prossima invece cominceranno ad essere convocate le vittime eccellenti di questi ultimi foto ricatti. Intanto indagati sono tre fotografi e la titolare dell'agenzia Fotomasi. Per ora è tutto. Grazie Raffaella Calandra, noi ci spostiamo a Bologna per il punto sulle indagini relative al sindaco Del Bono. Proclama la sua innocenza e promette che non appena sentito dai magistrati spiegherà alla città che lo incalza la sua versione dei fatti. Flavio Del Bono, sindaco di Bologna, eletto appena pochi mesi fa e al centro di uno scandalo che lo vede indagato dalla magistratura per peculato e abuso d'ufficio in relazione ad alcuni viaggi pagati dai contribuenti e nei quali avrebbe portato anche la sua segretaria e fidanzata Cinzia Cracchi, mantiene la calma e cerca soprattutto di farla mantenere ai suoi elettori e al Partito Democratico. Negli ultimi giorni a Bologna infatti è scoppiato quello che viene chiamato il Cinzia Gate, dal nome della ormai ex fidanzata del primo cittadino, già sentita due volte dai magistrati, ai quali avrebbe confermato i viaggi all'estero pagati da allora vicepresidente della regione e, secondo le ipotesi al vaglio della magistratura, a spese dei cittadini. A ciò la Cracchi avrebbe aggiunto di avere in uso un bancomat di proprietà di un amico di Del Bono e sul quale si sta cercando di fare chiarezza. Infine avrebbe anche accusato il primo cittadino di avere tentato di far tacere proprio in merito al bancomat, offrendole una consulenza da 1.500 euro al mese e un'auto nuova. Ieri sera comunque il sindaco ha raccolto l'appoggio del suo partito, che contestualmente ha manifestato piena fiducia nel lavoro della magistratura. Deborah Dirani, GR24, il Sole 24 Ore, Bologna. È ufficiale, Vittorio Sgarbi sarà il curatore del Padiglione Italia per la Biennale di Venezia 2011. Lo ha intervistato Adriana Fracchia. Non me l'aspettavo e quindi mi erano assegnato in qualche modo. Posso ritenere la mia nomina una sorta di contrappasso, ecco. Il che vuol dire non accettare i luoghi comuni e l'idea che in un tempo come questo l'arte contemporanea debba essere qualcosa di prestabilito attraverso alcuni autori obbligatori, che sono sempre quelli che si vedono in tutte le mostre, ovunque. E tutto questo con una grave limitazione del quadro reale della pittura e anche mortificazione degli artisti di valore, per cui sarà molto complicato, c'è molto tempo, quindi ci sono tante le cose che si possono fare. Lo spazio che hanno dato al Padiglione Italia è più grande, ma si può anche immaginarne uno più grande e più pertinente, perché il Padiglione Italia, nella sua determinazione originale, era il padiglione centrale dei giardini, e occorrerebbe immaginare se nell'anno del 150esimo non sia opportuno rimeditare di avere quello spazio per l'Italia più grande, perché c'è questa celebrazione importante, perché quello è sempre stato il Padiglione d'Italia. La domanda a quanti artisti intende invitare, le avrebbe detto: non ho ancora deciso, potrebbe essere uno, nessuno, 100.000. Cioè, se non è nessuno si fa prima, uno certo è un'idea, se poi quell'uno è antico ancora meglio, indichiamo Mantegna. 100.000 è una stima credo realistica, credo che oggi in Italia ci siano circa 100.000 artisti, di cui almeno 5.000 che meritano attenzione, di cui almeno 500 che meriterebbero di essere esposti. Chiudiamo con il calcio, le ultime novità sul derby Inter-Milan di domenica prossima. Sorrisi e campioni, all'antivigilia della sfida che vale una stagione, ad Appiano Gentile e Milanello ci sono finalmente volti meno tirati. Sorrisi, insomma, perché alcuni campioni, Stankovic e Muntari da una parte, Nesta dall'altra, stanno meglio. Nell'allenamento di questa mattina i due mediani dell'Inter, la cui eventuale assenza avrebbe lasciato quasi deserto il centrocampo di Mourinho, hanno lavorato con la squadra. Stankovic ha problemi al ginocchio, Muntari e flessori, ma le possibilità di recupero sono alte. Per Nesta, invece, Leonardo spera, si attende l'esito di controlli che ieri il difensore ha effettuato sull'adduttore acciaccato. Se saranno positivi almeno nel pomeriggio, allenamento leggero per il difensore, poi lavoro più intenso domani. Se non ce la dovesse fare, pronto Favalli a far coppia con Thiago Silva nel 4-3-3 rossonero, in attacco Borriello con Beckham e Ronaldinho ad inventare. Nell'Inter, se uno tra Stankovic e Muntari dovesse recuperare, Mourinho rischiererà il rombo a centrocampo con Snyder dietro Milito e Pandev, perché Eto'o, dopo il gol decisivo con il Camerun, si è qualificato per i quarti di Coppa d'Africa e resta con la sua nazionale. Massimo Di Scienza, GR24, il Sole 24 Ore. È tutto per questa edizione, grazie in regia a Filippo Aureggi, vi lascio in compagnia di Daniele Biacchessi con Italia in controluce, il GR torna alle 14. GR24, il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.